Mi sono fumato il radio. Signore e signori, è con immenso piacere e un pizzico di ardire che annunciamo l'inizio delle trasmissioni. Radio Catrame 19, la radio inusuale. Giovedì 8 novembre, puntata numero 22 di Parla come scrivi. Stasera il vagonaccio è quasi al completo. Hans dall'alto ci veglia tutti e siamo in 5. Sì. Sono Strelny, c'è Liv, c'è il sociologo Calzolai. E poi ci sono altri due passeggeri stasera. Li scopriremo, perché stasera parleremo di matriarcato. Matriarcato, cioè io mi incavolo come tutte le sere con questi nostri simpatici, cari amici, autori. È vero che vi danno pochi soldi al mese, è vero. Siete i nostri autori, vi fate ridere, accidente a voi. Noi vi rispettiamo però, ma altri argomenti no, c'è proprio il matriarcato. Cioè tra tutte le cose di cui si poteva parlare stasera del matriarcato. Un bel argomentone, E voi state difendendo gli autori, cioè sì. Questi qua hanno sbagliato, dovevano trovarci un altro titolo stasera. Vengono pagati, non lo so, per qualcosa. Questa voce, per esempio. Questa voce, questo che ci ha detto per esempio, questa voce da chi? Da quale parte dello studio proviene? Viene dalla parte destra in alto dello studio. E mi sa che ci ha allocato un altro sociologo qua. Allora. Che sta nelle vicinanze di questa. Questa sera di professione, diciamo, ma una professione. Diciamo subito. Sociologo. Allora. Sì. Il matriarcato. Io sono la matrona di Parla come scrivi, l'unica donna di Parla come scrivi. E quindi si sa che matrona, anche perché sono bella grossa, grassa, bella matrona, grande. Ma che è? Una cosa grassa, tanta, un faccione, cioè. A parte queste cose, solitamente io che sono la matrona, i parla come scrivisti hanno un certo interesse a stare seduti vicino a me, perché si sa che comando io. Questa sera Calzolai è stato declassato, perché detronizzato come Maria De Filippi, non è più lui il mio vicino di banco, ma c'è un altro sociologo. E mi dispiace, ma io voglio dire, prediligo menti più fresche, più giovani, con una certa allegria, insomma. A parte lui c'è stato già una volta con noi, il grande Mauro. Il grande Mauro Soldini. Soldini. Nostro caro Mauro Soldini, questa sera è qui con noi. Ed è qui nell'angolo di questo studio. Vicino alla matrona. Il Soldini si ricorda per la sua apparizione alle puntate circa numero 8-9 di Parla come scrivi. Quella della Network Analysis, dove si parlava seriamente di matrice, lui ha interrotto la conversazione parlando di cose anche poco più interessanti come la passera, che non è tanto da matrona, però adesso perché no? Sì, sì, no, no, no. Visto che facciamo una puntata femminile, voglio parlare di altro. Nella puntata maschile si parla di Master e Silvita Sandrini, stasera si parla d'altro. Ma secondo voi a noi gli autori ci fanno mancare qualcosa? No! Perché noi abbiamo anche la donna, perché oltre me di donne qua sono passate, devo dire, pochine, stavolta abbiamo una donna che, santa la miseria, recupera, mi fa un 2 secco a 0, abbiamo una cosa pazzesca. 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, Erika è con noi! Eh sì. Erika è con noi! Allora, esaurito le presentazioni, giustamente... Che fa? Scusa, la cartomante. La cartomante. Forse per noi potrebbe fare la cartomante. Per noi fa anche la cartomante. Comunque, se avete qualcosa da chiedere a Erika, lei ve lo risolve, perché funziona, abbiamo provato. Perché porta avanti un miracolo, porta che avanti. È quello da cui parte appunto la discussione della nostra puntata, l'analisi della nostra puntata, che è: ma che cosa succede? Che cosa succederebbe nella nostra società se fosse la donna a portare, solo e soltanto la donna, a portare i soldi in casa? Allora, abbiamo pensato al matriarcato, è venuta fuori questa puntata che sarà costellata dei nostri ragionamenti, al solito i ragionamenti del vagonaccio, interrotti qua e là da citazioni più o meno attinenti al tema della puntata e anche da un po' di musica che il nostro Hans, nelle sue valigine, ci ha portato anche oggi. Noi, per introdurre la puntata, a questo punto qui possiamo anche meritarci un Cagasonic dannata con una donna in carriera, penso che... Ci sta. Gli auguri non saranno bravi, ma il nostro chiche della musica, guarda, è forte. Una donna in carriera, Cagasonic. Vai, Hans, non ci lasciare soli ora. Un vago senso di inquietudine avvolge e cupo le mie notti, i vidi a morte i passerotti che cinguettano felice volan via. Dalle fauci dei felini, dai rumori dei vicini, dai pensieri poco sani, poi scagazzano sui tetti di noi tutti, che ci svegliamo un po' più brutti, con i conti banchi asciutti, i testicoli distrutti, da vicende poco amene e riposanti. Ma ci sei tu, la mia donna in carriera, da 600 euro al mese, e dimmi tu come pagherà le spese, sei proprio tu. Tecnologi più lunghe del mercato del lavoro, se l'opzione costa zero, quando torni da un colloquio di lavoro e ti chiedo quanto danno di stipendio, tu rispondi che il padrone del vapore mi ha dato una risposta, una bestemmia senza sosta, con un aglio da spaccare, più lupini da mangiare, palloni da cucire, sei proprio tu, la mia donna in carriera, da 600 euro al mese, dimmi tu come pagherà le spese, sei proprio tu, la mia donna matriarcato. Cagasonic ci ha introdotto a una donna in carriera, quindi qualcuno che ha la capacità di capovolgere fino ad oggi come è stata concepita la famiglia, no? C'è il babbo, l'uomo, che porta il mangiare a casa, e dopo c'è la donna. Che la donna. Stella. E se si invertisse... Se l'ordine dei fattori... Ah, ok. Se si invertisse l'ordine dei fattori... I fattori. Se invece adesso uomini fossero state donne... Che cosa sarebbe successo per la mezzadria toscana? L'ha registrata questa frase? Ragazzi, eccoci. No, certo, Hans, Maremma, però fa sempre... Ho capito che quando si parla di matriarcato tu non sei coinvolto, però... Allora, torniamo al discorso, donne e portare la pagnotta a casa. Hans scuote la testa. Perché? È perché lui, non si può dire che, si è lasciato con la moglie. Si è lasciato con la moglie? Sì, ma è un problema diverso. Sì, no, ma infatti non solo non porta, non c'è la moglie che gli porta la pagnotta a casa, ma deve pure pagare gli alimenti. Hans è una situazione molto particolare, però nel matriarcato, chissà come sarebbe la situazione di Hans nel matriarcato. Nel patriarcato Hans vive questa situazione. Morirebbe di fame. Morirebbe di fame, Hans. Perché? Io penso che forse le donne ce la darebbero questo stato sociale. Cosa ci darebbero? Lo stato sociale minimo. Ho capito, ce la darebbero. Entra quello, anche quello. Lo stato sociale minimo prevede anche... Queste cose... Tengo a dire sta cosettina qua e sta dicendo il nostro caro amico stasera. No, sto dormendo. Questo sordino che sta dormendo ma che sta intervenendo. Che si sente. Piano, cioè vuole o non vuole. È una presenza quasi femminile, per tornare in tema, che sovrintende sopra questi signori che stasera trascorrono con voi. Qui c'è qualcuno che si deve vendicare della network analisi. Sì. C'è qualcuno che... Allora, ma torniamo al discorso principale. Cioè, voi volete che le donne portino pure a casa lo stipendio. Dobbiamo portino pure. Dobbiamo cucinare. Sì, ma si invertirebbero i ruoli. Dovrebbero cucinare gli uomini. Fanno un po' di un bambino, allora. Che c'entra? È un altro discorso. Quello sono 9 mesi, poi lo continuano. Io non ho mai potuto sopportare veramente. Soprattutto quelli che dicono che il discorso è un altro. Tutti sono... Come cazzo fai a dire questo? Io ho detto un discorso e c'è argomentata e ti dice il discorso un altro. Non funziona. Bravo, io glielo dico sempre a lui. Che funziona sempre così. Non li sopporto questi. Peggio del non solo. peggio molto, non solo. Molto peggio. Ma il discorso è un altro, secondo me, è perché non l'ha inquadrato bene fin dall'inizio. Ma questo è presente la sinistra storica? Sì. I più stronzi, quando tu dicevi una roba, replicavano quel discorso e un altro, non mai potuto sopportare. Sì, però se quello voleva fare un altro discorso, ti dice il discorso. No, un però altro. Si inizia a discutere con te. Sì. Lei ha iniziato a discutere con te un argomento serio. Sì. E tu devi dire, il discorso è un altro, il discorso è il suo, ha iniziato lei, se no lo iniziavi te. No, bravo. Il discorso è comune. Ma sempre c'è. Attenzione, il discorso è comune perché la tag, l'argomento. La tag. Che cos'è? Siamo su una web radio, la tag. È l'argomento. Diciamo sì, la frase. In matriarcato la tag non esiste. La tag è anche femminile, non diremmo l'argomento, la tag è femminile. Quindi diamo un po' di ragione anche alle donne nel genere denominativi. Lo studio si sta dividendo in due. No, dicevo che il discorso all'inizio che avevamo pattuito. Discorso non era un discorso. Pattuito. Pattuito. Fusillanime. Fusillanime. Allora ragazzi, a questo punto qui viene da dire soltanto una cosa. A me. Poi la dico io. Il padrone è il padrone perché conosce 30.000 parole, l'operaio è operaio perché ne conosce 3.000. Ci vogliono i termini desueti. Lei ne conosce 35.000. E pian piano, anche se non cominciano per Uzzo, come ci ha scritto il nostro sociologo Calzolai su un tubaglio. Un gancio ganzissimo. Un pizzetto su cui si è anche pulito i baffi prima, ci ha lasciato un alone di giallo. Non è vero. Sì, non è vero. Nicotina misto ad altro. Allora, come Uzzo, ecco, vai. Questo per dire che tra poco, qua, a Radio Catrame, a Parla Come Scrive, faremo il giochino di Uzzo. Uzzo. Uzzo. Potete partecipare anche voi da casa. Sì, ma se non spieghi il sesto, la gente sta lì a aspettare, ma chi sarà questo? Che si vince? No. Uno è rimasto con mezza barba falsa. No, allora, cari radio, tele, web, etere, spettatori, o etere, spettatori, su queste cose abbiamo dei dubbi. Ecco, c'è anche questo... Anche uomo, spettatori. Stasera, adesso, qui, cominceremo a fare insieme a voi il giochino di Uzzo. Ok. Consiste in... E su questo... Consiste in... Sì. Non sapevo, Strenic, se tu avessi dovuto mandare la musica oppure... No, vai con Uzzo a sto punto, perché sapevo. Ecco, perché c'è... Strenic, fammi dei cenni. Sì. Ecco, va bene, sì. Ma questo fa mima. Come se non potessi parlare. Allora... Io non so, ma il discorso è un altro. Il giochino di Uzzo è questo qua. Vai. Bisogna... Vince chi trova più parole che finiscono con la parola, con le lettere U, Z, Z, O, cioè Uzzo. Uzzo. Questo è il giochino. Qual è la corretta dizione? Uzzo o Uzzo? Uzzo. Ok. Ma perché tu sei toscano, Uzzo? Una canzone ce la meritiamo. Fare cameriere a Milano, o le cameriere a Milano. Tanto stasera è tutto mischiato. Vai, Enz. Passo sul ponte, primo parlato d'Europa, con le macchine non cada niente, passo sul porto, primo famato d'Italia, dondolando sulle mie ginocchia. Fai camminare a Parigi, a New York, a Belgrado, fai camminare a Parigi, a New York, a Berlino, a Hong Kong, accompagnami a correre sulla circonvallazione, che voglio distruggermi un po' con su Fidello. Bombardare di là, bombardare di là, bombardare di là. Sarei il nostro migliore fornitore di miniere. Fai camminare da Parigi a Cavour a Beirut, che forse libero non arriverai in mare. Fai camminare da Parigi a Cavour a Pechino a Hong Kong, fai a correre sulla circonvallazione, a sentire sparare per fuori dai poligoni a sentire, sparare due passi in cimitero, monumentali e funerali di Berlinguer. A vedere di sparire a Firenze, partire col camion che raccoglie la spazzatura alle 6 di mattina. Des prétendent une province. Et j'irai dire aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes mon apôtre. Mais c'est le précédent, si vous me percevez, revenez vos gendarmes, que je n'aurai pas d'armes. Momento Uzzo. Momento a grande Uzzo. Richiesta parte il momento Uzzo, sì. Uzzo. Allora, frasi, parole o frasi che terminano con Uzzo, per esempio, stasera ma che buono quel merluzzo. Si parte Uzzo. Bene, Uzzo, sì. L'acqua noi a terra ce lo dà la società che si chiama Ruzzo. Sono così felice che mi tagliuzzo. Cazzo l'hai, ma cos'è questo puzzo? Ho mangiato il merluzzo in e Abruzzo. Ora in Abruzzo ho mangiato il merluzzo in Abruzzo e ora mi sono sbottonato i pantaloni, mi rimbuzzo. Sei un patruzzo. Ascolta. Beh. Bellina. Volevo fare un aggancio, ma non mi viene. Un calciatore volevo citare, un calciatore della Fiorentina, che non ha mai giocato in Abruzzo, ma che anche lui finisce con Uzzo perché si chiama Bruzzo. Sono sempre così contento che mi calerei nel calcestruzzo. Di matriarcato, noi vorremmo parlare anche con le parole di Remo Remotti, l'autore, tra l'altro anche attore, autore di questo libro che abbiamo tra le mani, che si chiama Diario segreto di un sopravvissuto, il libro di una vita del più autentico fate underground d'Italia, così lo definisce Einaudi, che lo pubblica. Mamma Roma addio è uno dei suoi più famosi, delle sue più famose opere recitate, anche lo vedete su YouTube. Ne vedete delle copie anche sulla rete. Non osiamo recitare Mamma Roma addio perché ci vuole un accento romano molto più spiccato di quanto non riusciremo a fare, quindi vi leggeremo altre parti, come vi leggeremo anche altre parti da Charles Bukowski e forse anche da un libro che abbiamo letto la volta scorsa, che si chiama Chi l'ha vista, la televisione secondo Norma Rangeri. Attacchiamoci al matriarcato, vai. Ci rimane quello. O volevi un altro momento? Uzzo. Da Bar Closing Down sono ancora Amy Laven, l'avete sentiti anche all'inizio, ma avete sentito anche una prima tappa che si chiama Medelana, Bologna, da un lavoro di Matteo Geri Hue, che ci ha mandato questo CD che si chiama Un'estate senza pioggia. È un viaggio che lui ha fatto durante l'estate del 2003, l'estate che dicono sia stata la più calda nel secolo, negli ultimi secoli. Lui ha fatto questo viaggio costeggiando, passando tra alcune regioni, l'Emilia Romagna, la Toscana, le Marche, gli Abruzzi e L'Abruzzo. Mamma, gli Abruzzi, ho detto. Che vergogna, questo è peggio del discorso, è un altro. Parliamo Uzzo, invece ho detto Uzzi. E avete sentito appunto il primo movimento di questo CD che si chiama Un'estate senza pioggia, che è la prima tappa, Medelana, Bologna. Ue, poi parleremo anche della graysparkle.com in altre puntate, ma torniamo al nostro temino. Te c'hai pronto una lettura o no? Non ti vedo troppo pronto, sono sociologo. No, vabbè. Non lo vedo. No, il sociologo è prontissimo, è che questo problema delle donne. Facciamo un sondaggio, noi siamo partiti. Questo problema delle donne sondaggio. È questo bello. Facciamo un sondaggio. Il problema delle donne. La donna. O l'uomo! Come citava. Sondaggio. Siamo partiti con questa domanda, ma se la donna porta i soldi a casa, non è meglio, i uomini stanno così. Sondaggio. Vediamo com'è la vita del vagonaccio di Parla Come Scrivi. Diciamo sì, tutti sì. I nostri telespettatori a dircelo, però. Strelnik, tu che fai? Lavori te o ti campa la tua donna? Lavoro io. Però lavora anche lei. si lavorano due. Qui tutto un lavorare, ragazzi, ma facciamola finita, non è possibile. Calzolai, lavori te o ti campa la tua donna? Mi campa la mia mamma. No. Soldini, lavori te o ti campa la tua donna? Magari. Magari lavorassi io, magari mi campasse lui mio. Tutte e due. Tutte e due. Tutte e due. Ok. Erika, campi il tuo uomo o ti campa lui? No, io lavoro. E devo campare anche il mio gatto. Madonna, si era già prontissima a dire che lui lavorava per tutti, poi che quel discorso che facevi prima te, no? Invece Hans, no, lavora per sé e poi devi dare, come sappiamo, vabbè, gli alimenti. Gli alimenti, e lì si rientra nel discorso di prima, che dell'incinta, che poi ti ho detto il discorso in alto, però se no Sordini mi ripacchetta e non lo posso più pensare. Io adesso ogni volta che ci sarà uno screzio o uno screziuzzo fra di noi, io chiamerò Sordini, perché è l'unica persona che capisce veramente quello che... Ma perché è uno spirito libero. È uno spirito libero. Le cose che io ti dico da 5 anni, lui te le ha dette in 5 minuti, con una sintesi che io non ho mai avuto e soprattutto ha colto. No, soprattutto non l'hai mai avuto, perché di solito tu ci usi i piatti quando... No, i piatti no, ci tengo troppo, i piatti quadrati, quindi i piatti no. No, no, non sono... Oh, che simpatico accento c'ha questo Sordini stasera. Sordini. Sordini, eh sì. Ha un simpatico accento, chissà da dove verrà. Da dove viene? Ma ci piace. Dalla Transilvania, da dove viene? Attenzione che entriamo all'argomento rumeni, poi sono degli argomenti delicati. No, ma adesso non si può dire nemmeno no. Lui viene da... Cioè, Cistrelli sta facendo censura. Noi stiamo in diretta. La dittatura del nostro vicariato. Noi stiamo in diretta. Intanto si va avanti 2000 anni, poi si vede. Stiamo in diretta. Santoro fa un puntatone pazzesco sulla censura, in memoria di Pace all'anima sua, grande Enzino Biagi, e tu fai così. Io vi censuro a tutti qua. Ma io non so. Te Stranic, ma per caso non ti mai visto anche tu uno di PT negli ultimi giorni? No, assolutamente. No, io vi censuro da un altro punto di vista. Non è che io vi censuro più. Guarda, sei pitizzato, No, no, ragazzi, ne scherziamo. Facciamo. Adesso, guarda, no, non so se la mia anche lui. Cazzo dai! Per quanto ci ha venduto Stranic? Ci sta moderando la trasmissione. No, non ho venduto nessuno. Perché parla come scrivi la sigla è PCS. Diventa PDS adesso. Non Veltroni è un democristiano. PDS non è più. Va bene così. No, ma in questi giorni, sociologi, voi che la realtà la vedete meglio, io non la vedo così. Ma accendi la televisione adesso, no? E sembrano quelli del PD. Sono diventati razzisti, cattivi, devono cacciare la gente, via! Poi senti Tremonti che invece parla di lavoro come... Sembra un sindacalista. Ma che è successo? Si è ribaltato il mondo, non me ne sono accorta. Eh no, perché ogni tanto si scambiano le parti, così... Pure se... i due posti si uniscono a un certo punto. No, forse sì, ma non è per il loro esempio, di sicuro penso di no. Penso che invece ci attendano tempi abbastanza senza ossigeno, come quelli che ci dichiarano i... Brain Damage, una vecchia conoscenza di Radio Catrame 19, e per questo ed altro dovrebbe mandarci la musica Hans, che invece ci lascia inaspettatamente senza musica di sottofondo. Hans! Quando fa così è incredibile. Però ora ce l'ha azzeccato. Hans! Yeah. patriarcato che forse non vorremmo è quello dove le signore oggi in emergenza e in, sul palco si comportano e guadagnano e fanno come questa signora Simona Ventura. Simo per gli amici. Simo per gli adesso amici. Si dice Simona, non se. Si dice Simo, anche i telespettatori dicono ciao Simo! Ecco. Ciao. Allora, sì, Simo adesso è la nuova. Lei diceva da giovane, io voglio essere come la Carrà, voglio fare la Carrà, ma la Carrà in fondo era una vera rappresentante del matriarcato, molto, molto materna, molto gentile, buona, regala le case a tutti quanti, fa andare i parenti. Guarda, io mi sta anche un po' sulle palle la Carrà, però la Carrà ha fatto l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Cioè quella dei. No, no, ma infatti. Poi dopo uno può dire che lui fa dopo non mi piace. A me. Però no. Il discorso è un altro, Strelick! Ma gli portavo un secchio là, secchio dai. No, secchio però adesso Strelick, che qui che te ti hanno pagato. Cioè, questi l'hanno notizzato. Cioè, la rade da quella L'ha notizzato il TG2 di Mimun. Comunque no, stavo dicendo. Come diceva il vendacoliere, la Carrà ce la dà e non ce la fa nemmeno pagare. Ok. Ah, vita. Veramente. Autori non vogliono più fare un programma con i toscani. Hanno un livello. La Carrà, quando c'era i fagioli, no? Che dovevi indovinare uno dei fagioli e c'era in televisione. Lei c'era una vignetta sul vernacoliere in cui c'era lei con la gonna tirata su, tutti i peli della zing zizzera, della topa, e diceva agli spettatori, riporta sì questa vignetta, indovinanti i peli ciò invece dei fagioli. E la cosa del vernacoliere, una delle prime pagine del vernacoliere fu la Carrà ce la dà e non la fanno nemmeno pagare. Sembrava che regalassero tutto in quegli anni lì, la televisione. Cioè, indovinavi il numero di fagioli ti davano 10 miliardi. Ora nemmeno da di dimmi chi ha vinto la guerra fra persiani e greci. No, dimmi il numero di fagioli. Oh no. Vabbè, ma ora... perché scusami, il discorso è proprio questo, era all'inizio, i fagioli sono stati scientificamente nel linguaggio televisivo italiano il primo esempio di TV pop. Cioè io ti faccio da collante per la TV su una cosa che non è. Che è così, i fagioli, chi lo sa, è un numero. I fagioli hanno fatto da incubazione alla più grande peta che abbia fatto la televisione. E dopo il carduccio degli anni di... anzi, dopo il freddo degli anni di piombo abbiamo avuto il carduccio degli anni di merda. Madonna, che tristezza. No, è la verità, da ragazzi. Adesso invece fagioli. Che succede? Dopo se è vero, come è vero forse, quello che dice Strelnik, cioè che anche la televisione serve a bilanciare gli animi, il sociale, quindi adesso in teoria... è un macello, perché in televisione c'è solamente lo stato di tensione sociale che ti provoca la televisione è altissimo, tanto che uno studio di su Repubblica.it, l'ho visto una settimana fa, diceva che chi guarda tanta TV in realtà è sempre molto teso e nervoso, perché tu accendi, vedi quella che urla dalla De Filippi e poi l'avventura impazzisce di dire parolacce ieri sera, figlia di puttana! Cioè, a un certo punto ti agiti, ti guardi mezz'oretta l'Isola dei Famosi e stai, che è successo? Perché sono incazzata? Passa tuo figlio e dice, va bene, così. Lei, appunto, la Simona, che voleva essere guai alla Carrà, è diventata invece una che bacchetta. Si incazza. La puntata scorsa, quando quelli che facevano lo sciopero della parola, non si può fare lo sciopero della parola, e fate muro contro muro, sembrava Epifani. Non si può, no. Ieri sera dice le parolacce a uno che si è venduto per un'intervista televisiva, a un giornale. Perché voi? Non ho capito, Corona che vendeva le foto e le interviste è diventato famoso, questo poveraccio che magari non c'è manco una moglie che lo campa, ha trovato un'ex fidanzata famoso, ha detto sai che è, mo telefono a chi, me daranno 5-6 mila euro per fare un'intervista su una stupida lì, fatto bene in fondo, ma perché, oltretutto, perché io mi fa cagare, a te fa cagare, però voglio dire, perché bisogna criminalizzare in diretta questo qui, che non sarà una testa di... Sì, ma... Non gli brillerà il cervello, però criminalizziamo questo qui, l'ex fidanzato di Karen... Ma chi lo criminalizza? Lo criminalizza lei! Karen non è nessuno, è una che non era famosa e continua ad essere famosa, solo che... Sì, ma criminalizza lei, cioè della gente non ne frega nulla della criminalizzazione. E senti, invece, cosa dice Norma, la mia amica, la nostra amica Norma, che non è un libro di cucina, ma è Norma Rangeli, che l'ha vista a Rizzoli, tutto il peggio della TV, da Berlusconi a Prodi e viceversa. Simo, sulla schiena si è fatta tatuare una corona da regina. Si sente la numero uno e certamente lo è il suo prezzo sul mercato pubblicitario. Linda Parinello, direttrice di TV, un mensile dedicato al mondo della televisione e al suo business, calcola in 5 milioni di euro l'anno tra TV e sponsor il valore dell'avventura. Il suo cachet per una campagna pubblicitaria si aggira attorno agli 800.000 euro, superato solo dai 900.000 di Fiorello e Bonolis. In base a questi numeri si capisce meglio perché dopo il divorzio artistico da Lele Mora, l'avventura si affidi a una holding internazionale, il gruppo Aegis Media, per curare immagine e affari, come se fosse una marca da pubblicizzare. Ragazzi, ma con l'avventura ci si fa una legge finanziaria, eh? Eh sì. O a privatizzarla, ci si potrebbe rimettere i bilanci dello Stato. Insomma. O si fa a pezzettini, la si privatizza. L'avventura deve fare pubblicità progresso. Cioè, una pubblicità che parla di lei, cioè guardatela e pagatemi. Una pubblicità, una meta pubblicità. La faccio solo così, poi gli do in beneficenza. Carissimo, si può fare. Paga il Marie Curie. Mamma mia. Boh, l'avventura è Marie Curie. Marie Curie, santa protettrice di Radio Catrame 19, anzi laica protettrice di Radio Catrame 19. Disintegration ci introduce a questa canzoncina dei Flash Eaters. Disintegration Nation. Vai Ants. Ma spieghi questa cosa qui, perché... La spieghi? In diretta su Radio Catrame 19. In diretta su Radio Catrame 19. Se a qualcuno riesce a spiegare sta cosa, ovvero, come fa Maria, non Maria, l'avventura. Maria Ventura, no. Vorrei mettere un lapsus su questa cosa del matriarcato, forse. Simona Ventura. Simo Curie. Come fa a Simo pagarci Curie. I curi a noi precari del sistema accademico. italiano. Come fa? Sta curì. Sta curì. Sta curì. È così. Che se l'avventura si guadagna sui 5 milioni di euro in un anno, no? Tu calcola quanti ricercatori barbuti puoi spedire per 3 anni nello stato di? Di Brasile? Brasile, nel Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Pensa quanti ne spedisci. Allora mi dovrei incazzare. Eh sì. Perché quei soldi della Curie, della Simo Curie, che sono rimborsati al 100%, che ti consentono di tornare dalla tua mami una volta all'anno, per ogni 3 anni. Sai quanti viaggi ti fai nel Rio Grande? Oh mamma mia! No? È messa. Eh sì. Anche perché la Simo la paghiamo noi con il canone, non è nemmeno che chissà che, insomma, Ragazzi, io il canone non lo pago. Nemmeno io, però si dice sempre noi. Ma la... che fai? La guardi la televisione? Un tu potresti, Un tu potresti, però perché un potrebbe? Non paghi il canone. E non paghi il canone. E guarda le altre cose. La radio non lo ascolti. Ma guarda anche la radio. Non ascolti il nostro amico di fare @rai.it con la P in mezzo. Ma sì, su internet. Marino Silva. Marino. Marino con l'H in mezzo. Ciao Marino! Ciao Marino, grande Marino. E io ascolto dal web, si può. Ma Marino con chi? Ah, Marino, mica l'avventura. Marino chi lo paga? Io. Marino si paga con il canone, Il canone quando serve a pagare il marino va bene, quando serve a pagare un posto al sole va bene. Sì, va bene. Ecco. Va bene. Marino, domani noi promettiamo che andremo a pagare il canone così tu ti fanno uno studio carino. Ma non me la sento. Uno studio carino per Marino. Non me la sento. Non te la sento, ma ne sarete nemmeno io. Io sì, io per Marino. Per Marino sì, per Marino sì. Vabbè, ma a questo punto mi vedo a cena la sera, facciamo prima, insomma. Sai che Marino Sinibaldi? Ma non Sinibaldi, Sinibaldi. Sinibaldi. È vero. Marino? Sì. Ha la voce più bella del mondo. E anche un bell'omone. Sai che l'ho conosciuto anche io al salone del... Si sono innamorate di Marino. In un club, si sono conosciuti in un club. Fahrenheit ci deve passare 4.000 spettatori. Marino. Marino, e allora io sì, è un bell'uomo. Io sono strisciata fino a Marino al Salone del Libro di Torino di qualche anno fa, chiedendomi un autografo. No! Una cosa che non ho mai fatto in tutta la mia vita. No. E lui mi ha guardata come se fossi una merda. No, veramente! Non è vero! No. E mentre strisciavo, e già era brutto, lui era sul palco di Rai 3 della Rai, c'era un palchetto sì. E sono pure in porca miseria, Erika. Oh mamma mia, oh mamma mia. Però aspetta, io adesso. Però è una scena favolosa, anche non me l'ha descritta. Sembrava degli esseri, cioè hai visto lo sguardo. Sai cos'è? Ma io stavo strisciando. In realtà inciampare mi ha consentito di arrivare in ginocchio, che quasi era meglio. Almeno. sì. Però no, aspetta, io fare chiocciola mi piace troppo, fare chiocciola rai.it. Fahrenheit, Marino lo conosco anch'io per altre storie, ma è proprio normalmente nel today life è molto bravo. Molto. Ragazzi, lo sapete che io mercoledì pomeriggio sono su Fahrenheit? No! Bellissimo! Sì! Ma dai! Sì! Sei su Fahrenheit! Allora salutaci a Fahrenheit! Anche Mauro è uscito dal coma. È uscito dal coma che non lo sapeva. No. Sì, perché cercavo un libro per un'amica. Bellissimo. E gliel'hai trovato. E loro mi hanno detto facciamo il lancio mercoledì. Quindi mentre sono in treno. Ta-da. No. Allora, tu aspetta. Ma anche Strelli che è stato a fare. Due volte ti ha letto Marino le tue lettere. Ma quelle erano mail. Vabbè, ma intanto ti ha letto, eccetera. Vabbè, e poi anche il nostro bravo uomo è stato a fare Night una volta in diretta. Alla fine io non ci sono stata mai. Ma lei mi ha trovato anni fa anche un libro. No. Sì. Il libro che fa la differenza e che si chiama Chi ha ucciso Gigi Rizzi. Giuro. Ma chi ha ucciso Gigi Rizzi? È stato orribile anche in quell'occasione. Da un lato all'altro, però siamo ritornati su questo Gigi Rizzi che in effetti poi era uno che grazie alle donne ci ha fatto soltanto partire, un po' sfruttandole. Grazie a una donna sola alla fine. Bibi. E poi con tutta la coda lunga di Bibi. Gli hanno pure fregato il nome per farle tutte le scene. Gigi Rizzi, Piacenza, 23 giugno. Ma non è lui? No. Sfigatissimo. Momento didascalico. Gigi Rizzi, Piacenza, 23 giugno 1944. È un agricoltore ed un imprenditore italiano. È stato anche attore ed è diventato noto come Playboy. Ha raggiunto una certa notorietà essendo stato un personaggio della vita mondana francese e italiana negli anni 60. Spesso nominato ai giornali di gossip per brevi flirt con Brigitte Bardot. Porca miseria. Terzogenito di quattro fratelli, dopo la Seconda Guerra Mondiale si trasferisce a Nervi, in provincia di Genova. In Costa Azzurra, in particolare a Saint-Tropez, si fa notare in un gruppo di amici, fra cui Franco Rapetti, detto il principe, detto Parisi che... e Gianfranco Piacentini, conosciuto come Les Italiens. Madonna, ragazzi. Nel 1969 fa la sua prima comparsa ne La Donna Invisibile, di Paolo Spinola. E di lì continuerà una breve carriera cinematografica nei film La morte di Sara ieri di Duccio Tessari, Ettore Lo Fusto. Duccio Tessari è un grande. Sì, Ettore Lo Fusto di Girolamo Castellani. Castellani. Fino a Roma Ben di Carlo Lizzani nel 71 e L'occhio nel labirinto di Caiano nel 72. E poi... nella metà degli anni 70 abbandona la vita mondana europea, si trasferisce in Argentina dove acquista del terreno agricolo un cospicuo numero di capi di bestiame, fondando così un'importante azienda agricola. Una linea di abbigliamento sportivo porta il suo nome. Chissà come si chiamava questa azienda. Nel 2004 ha partecipato al reality show La Fattoria. Madonna mia, ragazzi. Porcelli Rizzi. Pomodori Rizzi. Porcelluzzo. Sei mia, ma in realtà non sei mia. Tu sei più tua che mia, e così è giusto che sia. Impazzirei di gioia se tu fossi davvero mia, ma sbaglierei, perché in amore non c'è tua e mia. Pertanto, mia, non dirò mai che tu sei mia. Al massimo lo potresti dire te, amore, io sono tua. Allora ti chiederei, davvero, sei mia, tutta mia? E tu potresti rispondere, sì, io, mia, sono tutta tua. Ma mia è un abbreviativo, non è vero mia? Certo. E allora perché ti fai chiamare mia? Non era meglio farsi chiamare tua? Pensa per te. Ma cosa vorresti dire? Vorresti dire, sono cazzi mia. Mi rispondi così, li mortacci tua. Basta, facciamo la pace. Va bene, mia, sono tutta tua. Ma io impazzisco di gioia a pensarti mia. Sì, sono tutta tua, parola mia, vita mea, mors tua. Fai come vuoi, mia, l'immortacci tua. Momento Uzzo sul finale, quindi è ancora peggio. C'è preso il ruzzo. Allora, scusate, c'è stato un momento di... Ragazzi, siete degli animali, cioè, io piena di poesia vengo sì, a raccontare una storia d'amore. Emonia, che cosa ha visto? E Liv, niente, ho visto se la tua agendina la via di un tizio che è Saluzzo e quindi non... È la strega dell'amore, della poesia, ma... Accolto Luzzo. Sì, accolto Luzzo. Lì sa accogliere sempre. Oh, domani devo andare alla grotta del Luzzo. Ecco. A Trapani c'è la grotta del Luzzo, vado, c'è un mio amico che vive là. Vabbè. Poesia del finale. Cascia struzzo se detto. Sì. Scriveteci a fare@rai.it con l'H in mezzo. Però al momento della poesia. Allora, no, scusate. Sì. Sì, però prima facciamo una cosa, siccome noi siamo fra noi radiofonici amici, Catrame Radio Rai, sono la stessa cosa. Esperimento. Allora, noi adesso facciamo partire un sondaggio da Radio Catrame, ma va a finire a Fahrenheit. E quindi, se qualcuno sa delle bellissime parole che finiscono con ruzzo, con uzzo, non scrivete a noi, ma scrivete a fare@rai.it con l'H in mezzo. Poi il marino me le rigira e o le dice lui e facciamo una cosina insieme. Scrivete le parole che finiscono con uzzo a fare@rai.it. Ecco, è bella, mi sembra molto futurista. È molto 2.0. Sì, molto 2.0. Alla fine era quello, no? Il nostro tema di questa sera. Sì. Volevo raccontarvi una storia che è questa. Che una volta sono stata a Buenos Aires e ho visto scritto su un muro, nella Boca, che è il quartiere povero ma colorato della città, la più bella poesia d'amore che un uomo può dedicare a una donna, secondo me. Bello. E allora pensavo che questa era l'occasione di leggerla. Fantastico. E poiché mi occupo di progetti internazionali, è una poesia in spagnolo, ovviamente. Portoghese? Portoghese no. Sei un po' fissato. No, perché è tutto chissà spagnolo, perché. Tutto spagnolo, ma in portoghese non. Che vuoi? Cioè, vabbè, no, non voglio entrare in polemica. Senti, io te la leggo in spagnolo, okay. Tu la traduci in portoghese e poi parti per il Rio Grande. E così ti ha zittito. Zacchete. Bellissimo. Quando vuoi. Ven. Quiero ponerte todos mis besos. Quiero besar la única boca que quiero. Te besaré una y otra vez puesto de partes. Quiero darte largos y sostenidos besos en tu boca, en tu cuello, en tu pecho. Y más abajo, más abajo, más. Se me calienta la sangre al sentirte cerca. Todo se vuelve vértigo. Cierro los ojos, los abro y estamos aquí. Y nada más importa. Te miro y veo mi vida toda. ¿Acaso hay mayor placer que perderse con vos? Lai, non ve lo dico per niente, momenti fa cavachiri dal nuovo bell'uomo più innamorato del mondo in questo momento, e quindi è stato particolarmente colpito al cuore, ma come noi tutti. Chiudiamo. Sono proprio, cioè, io me la rifaccio con gli autori, scusa Riff, ma proprio sta cosa autori ci dovevate mettere stasera. Insomma, cioè voi siete proprio degli stronzi, scusate. Questa cosa va di questa poesia di mettere alla fine, proprio per chiudere in bellezza, mi avete voluto dare la mazzata. Va bene, siete incazzati con me. Va bene, fate come volete, chiamate anche la gente qui in studio. Ho capito perché avete chiamato la gente qui in studio. E io mi incazzo, però, scusate, tanto, scusate questo fuori onda, diciamo sì, così, sì. Strennic. Sì, sì, sì. Perché venire qua stasera e sentirvi raccontare questa poesia d'amore che così in questo momento sta proprio un torto per me. Scusi, lingua molto scusi signorina, se glielo dico. E vi saluto. Vabbè, le non voglio fare come si Buonaventura. Non le polemiche, no. Oh, ma ricalcato. Niente polemiche. Se hai qualcosa da dire, parla con gli autori. Dopo. E comunque non è. Però ne parliamo dopo la trasmissione. Ne parliamo dopo la trasmissione, perché è vero, sì. Scusate. 3, 2, 1, scusate. Tempo scaduto. Scusate. Allora, noi ringraziamo tutti i passeggeri del vagonaggio di stasera, a partire dal nostro vagonaggio, vagonaggio di stasera. Il nostro vagonuzzo grande. Vagonuzzo di stasera, e a partire dal sociologo Calzolai, da Liv, da Strelnik e dai nostri passeggeri extra di stasera. Extra lusso. Extra lusso. In stasera. Prima classe l'altro sociologo Soldini, la seconda volta con noi, la terza sarà ancora meglio. Sì. Perché è sempre il terzo appuntamento quello. Sì. Forte. O io ce lo voglio. ce lo voglio. E infine, ma non ultima, la voce che avete sentito declamare questa poesia finale assomiglia molto pericolosamente a Erika, organizzatrice internazionale, nonché abbiamo scoperto stasera con il nostro sommo gaudio anche donna, rifinisce benissimo questa puntata, favolosa. E allora noi vi lasciamo con Twisted Road. Procacciatrice da fare. Procacciatrice da fare e di desideri, facciamo così degli altri. Sono desideri degli altri, così. Ricordiamo che ci riascoltiamo sul podcast da domani, sempre da qui all'eternità, giovedì prossimo in diretta. Avete una settimana di tempo per scrivere a Marino. Fareciaggio.it. Tutte le parole che finiscono con Uzzo. Ciao ragazzi, buonanotte. Giovino molto intelligente da fare a casa. Twisted Road, Flesh Eaters, Viance. Your blood. What did you got that I got to lose? Even if it's time for a moment.